听众朋友，刚才您欣赏到的是由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》上半部分录音。稍后请您继续收听。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。接下来的时间中，请继续欣赏由安吉列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》下半部分录音。 No.

Thank you. se se sorrende di pornellia la donna offende dove mio figlio io non lo vedo in te pio il freddo trovar no, non so dove mio figlio io non lo vedo in te pio il freddo trovar in te pio il freddo trovar non so ah sì che feci ne sento orrore gelosa smania deluso amore mi strazia l'alma più non ragiono dai perdono più non avrò volle a fuggirla non ho potuto dall'ira spinto son qui venuto orché lo sdegno ho disfogato m'è sciagurato rimorso

Aspirare me vol sarà sa tutto che io so che fine reso mi sei da questo palpito si otterrò in pace senza desistere più non potrei ma sangue in vita mai ridonato per me t'uccidere non vuoi di nuovo scorda la fanno donna volata a me perdona il genitor io ti perdoni la mia sonia ma solo a morte mi rende l'uomo le l'angelo mio mai più di vivermi potrà da te l'uomo le l'angelo mio mai più di vivermi mai più no mai più no mai più no no no no no no no no no no Non lo cerchi, troppo rimorso ai mani di buona. mia, qui non mi trai.